pensieri accunnato per me, ma perché, chi io de me non devo tu proprio a ricordare. Certo caspante che muore per me, non di no, non di no, ma tu può veder me, ma sfrenne sia per te. Oh,